Vengo da lontano e vorrei fermarmi un poco, ma non posso. Nelle case tutto il pubblico è commosso. È commosso mentre piange anche lo sponsor, che lo applaude, gli butta anche un osso. Salutando lui comincia a vomitare.